Mare, giornale radio del Friuli Venezia Giulia. Scontro frontale tra due auto questa mattina a Lauco. Muore un ragazzo di 24 anni, ferita una donna trasportata all'ospedale di Udine in gravissime condizioni. Una donna di 63 anni esce per una passeggiata nella zona di Verzegni se scompare. Nelle ricerche impegnati i tecnici del soccorso alpino e speleologico di Forni Avoltri con unità cinofile. Periodo d'oro per il turismo in regione, lo confermano anche i dati delle prenotazioni alberghiere per Lignano. Di turismo e ospitalità nell'era dell'intelligenza artificiale si è parlato oggi proprio nella località balneare. A 10 anni dalla chiusura del punto nascite di Gorizia è inaugurata oggi la nuova casa della salute della donna, dell'infanzia e dell'adolescenza. Volontari triestini impegnati negli aiuti umanitari a Kherson, una delle città dell'Ucraina più colpite dall'invasione russa. Prossimo viaggio nella regione di Kharkiv. Va la giornalista irlandese Sally Hayden per il libro inchiesta sul dramma dei migranti nel Mediterraneo, la 20ª edizione del premio letterario internazionale Tiziano Terzani. Lo sport, calcio e ufficiale, esonerato Mr. Cioffi, il campione del mondo nel 2006, Fabio Cannavaro, atteso oggi a Udine, dovrà risollevare le sorti di una squadra terz'ultima in classifica, nel suo staff anche il fratello Paolo. Ancora una buona giornata da Maria Spezia e da Elisabetta Zaccolo in studio per questa seconda edizione del nostro giornale radio, che purtroppo dobbiamo aprire con una notizia di cronaca, perché c'è stato un incidente mortale questa mattina poco dopo le 7 lungo la strada regionale 355 Carnica all'altezza di Lauco, in seguito ad un frontale tra due auto avvenuto ancora per cause in corso di accertamento. È deceduto uno dei due guidatori, un giovane di 24 anni, Thomas Dellinz, nato a Tolmezzo e residente a Ovaro. Ferita gravemente la donna che era alla guida dell'altra auto, ora ricoverata all'ospedale di Udine in codice rosso, in prognosi riservata. I vigili del fuoco sono riusciti ad estrarla con difficoltà dall'abitacolo e i soccorsi l'hanno stabilizzata sul posto. Ancora cronaca, una donna è scomparsa nei boschi a Verzegnis in provincia di Udine. Si tratta di una 63enne del posto che è uscita di casa per fare una passeggiata e non ha fatto più rientro. Dopo l'allarme lanciato dai familiari sono scattate le ricerche che impegnano le squadre della stazione di Forni Avoltri del soccorso alpino con i militari della Guardia di Finanza e i vigili del fuoco di Udine, a cui si sono aggiunti anche alcuni pompieri dalla stazione di Gorizia, coinvolte anche le unità cinofile. Ora torniamo ad occuparci del problema dei lavoratori alle prese con dipendenze da droghe, questa volta visti dall'osservatorio dei SERT. I lavoratori con mansioni a rischio che risultano positivi ai primi test antidroga obbligatori per legge presso strutture private sono sempre di più, ma questa crescita non corrisponde a un aumento significativo di invii agli accertamenti di secondo livello, quelli svolti presso i SERT, i servizi delle dipendenze delle aziende sanitarie, per escludere la presenza di dipendenza da sostanze. Per i responsabili di queste strutture il dato andrebbe indagato. La responsabile del SERT di Udine, Tiziana Lombardelli. Possiamo immaginare o che pochi sono le valutazioni sui lavoratori o che le positività probabilmente si bloccano al primo livello, perché il lavoratore sceglie di cambiare lavoro o che magari vengono anche licenziati. C'è per gli esperti anche il rischio di esami falsati. Possiamo pensare di sì, esistono in internet anche dei tutorial dove ti insegnano come frodare sulle urine. Osservatorio sulla realtà del Medio Friuli, al SERD di Udine quest'anno gli invii alle aziende sono comunque in aumento. Vedevamo gli anni precedenti 8-10 persone, se ad aprile abbiamo già avuto invii per 7 persone, prevediamo che alla fine dell'anno ci saranno per un numero sicuramente almeno 3 volte. Come valuta questo aumento? Una maggiore sensibilità del datore di lavori nell'invio delle persone considerate a rischio. Tra i 30 e i 50 anni l'età dei lavoratori che arrivano al SERT, e c'è anche chi decide di non sottoporsi agli ulteriori test. Il costo per queste valutazioni si aggira su 500 euro ed è un costo a carico del datore di lavoro. I risultati dei suoi accertamenti confermano intanto la prevalenza dei cannabinoidi e l'uso occasionale. Le nostre diagnosi prevalenti sono assenza di tossicodipendenza, sicuramente un uso probabilmente occasionale. I luoghi di lavoro sono i luoghi di vita e come nella vita ci sono le sostanze stupefacenti, anche i lavoratori ovviamente utilizzano sostanze. Nei periodi in cui le persone stanno peggio, periodi storici, economici, le sostanze in genere aumentano. Lara Boccalon, TGR Friuli Venezia Giulia. Come sfruttare al meglio le opportunità fornite dall'intelligenza artificiale nel settore del turismo? Se ne è parlato questa mattina a Lignano in un convegno promosso da Confcommercio Udine, Federalberghi regionale. I dati promoturismo delle prenotazioni alberghiere per Lignano Sabbiadoro in prospettiva fanno ben sperare, più 3,7% rispetto all'anno scorso. Nella località balneare, dove anche il comune di Lignano Sabbiadoro ha iniziato interlocuzioni con alcune ditte che si occupano di intelligenza artificiale, si discute proprio di come trovare nuovi margini di crescita valorizzando i dati grazie alla potenza degli algoritmi. Perché, come sottolinea Francesco Ciucciarelli, direttore informatico di Alpitour World, ciascun operatore possiede dei dati che hanno valore, bisognerebbe imparare a sfruttarli invece che a cederli a terzi. Ciucciarelli è uno degli invitati del convegno promosso da Confcommercio Udine e Federalberghi FVG. Di recente la Camera di Commercio Pordenone Udine ha deliberato di mettere a disposizione 1.100.000 euro per sfruttare i big data attraverso lo strumento dell'intelligenza artificiale. Si stima che solo il 13% delle aziende del turismo, le più grandi, sia attrezzata per sfruttarne la potenzialità e solo l'1% dei finanziamenti finisca a start-up nel settore turistico. Un problema è la fatica da parte delle microimprese ad allocare budget ad hoc, ma anche l'assenza di enti intermedi che facilitino l'incontro tra innovazione tecnologica e tessuto delle PMI. Oggi esistono già assistenti di viaggio personalizzati portatili, in grado di comunicare con il turista, adattare il suo itinerario, prenotare taxi o ristoranti. Ma introdurre queste tecnologie permette soprattutto di liberare tempo dalla produzione contenuti, dall'assistenza virtuale, dalle traduzioni, per esempio, tempo da dedicare al rapporto umano con il cliente, aggiunge Ciucciarelli. Il convegno è stata anche la prima uscita ufficiale nel suo nuovo ruolo per Enrico Guerin, albergatore lignanese, da aprile nuovo presidente di Federalberghi Friuli Venezia Giulia. Raccoglie il testimone da Paola Schneider, presente in sala, al timone dell'associazione di categoria regionale per gli ultimi 12 anni. Lignano Sabbiadoro, Lillo Montalto Monella, TGR Friuli Venezia Giulia. Adesso spostiamoci a Gorizia, dove è stata molto partecipata la cerimonia di inaugurazione della nuova Casa della Salute della Donna, dell'Infanzia e dell'Adolescenza del capoluogo isontino. Un servizio innovativo dedicato a mamme e bambini che nasce grazie ad un progetto transfrontaliero, a 10 anni dalla chiusura del punto nascite di Gorizia. Area massaggio, relax, una piscina con acqua calda, ambulatori ostetrici, poi sala conferenze, area incontri e ristoro. I materiali scelti, legno e vetro. Sembra una spa la nuova Casa della Salute della Donna, dell'Infanzia e dell'Adolescenza, inaugurata all'interno del Parco Basaglia di Gorizia, che ospita il percorso nascita di Asugi, dedicato alle mamme di un territorio sempre più transfrontaliero. La ristrutturazione è stata finanziata all'interno del programma Interreg Italia-Slovenia 14-20. A Roberta Giornelli, responsabile ostetricia dell'area isontina, chiediamo perché è stato necessario aprire una struttura come questa a 10 anni di fatto dalla chiusura del punto nascite di Gorizia. Troveranno una serie di servizi e di offerta proprio per il percorso nascita, che come sappiamo va dal periodo preconcezionale, anche questo momento che deve essere comunque sempre risaltato proprio per creare anche la salute futura delle nuove generazioni, fino a circa 2 anni di vita del bambino. Non troveranno solo questi servizi che potranno essere legati al percorso nascita, ma a tutta una serie di attività della salute della donna, quindi insomma sia che riguardano proprio la fisiologia della salute della donna, che poi diciamo potranno essere accolte e essere prese in carico da tutta una serie di rete di servizi che abbiamo sia territoriali che ospedalieri. Leggo anche adolescenza, c'è bisogno di occuparsi delle giovani donne. Esatto, c'è bisogno di occuparsi delle giovani generazioni proprio per in qualche modo veicolare tutte quelle informazioni importantissime proprio per la salute futura. Noi sappiamo che alcuni pilastri della salute sono, si creano proprio dall'infanzia, e quindi se noi riusciamo a fare benessere e salute in questa fase di vita, riusciamo ad ottenere dei buoni risultati di salute proprio per le generazioni future. Gorizia, Anna Vitaliani, TGR Friuli Venezia Giulia. I temi dell'economia: il gruppo Roncadina ha chiuso il bilancio 2023 con 175 milioni di euro di fatturato. Pur riscontrando una flessione in termini di volumi di produzione, siamo riusciti a mantenere stabile il fatturato, nonostante sul nostro comparto abbiano pesato le dinamiche inflazionistiche che hanno portato i consumatori a essere particolarmente attenti al prezzo, ha commentato l'amministratore delegato Dario Roncadin. Nel contempo l'azienda ha mantenuto attivo l'impegno verso la sostenibilità ambientale a fronte di 1,5 milioni di euro l'anno di investimento e nei confronti del consolidamento dell'occupazione, puntando su contratti part-time e su flessibilità oraria a favore delle lavoratrici, che costituiscono il 78% della forza lavoro e hanno un'età media di 44 anni. Nel 2023, secondo i dati del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, il 37,2% dei cittadini del Friuli Venezia Giulia che ha sostenuto l'esame di teoria per l'ottenimento della patente e non ha superato il test è un dato inferiore alla media nazionale, è al 39,9%. Tra le province, la percentuale più alta di bocciati alla teoria si registra a Trieste con il 41%, seguono Gorizia con il 49%, Udine col 36,8% e Pordenone col 33,7%. Ma cosa accadrebbe se gli automobilisti del Friuli Venezia Giulia che hanno conseguito la patente B da oltre 5 anni ripetessero oggi l'esame di teoria? Secondo la simulazione condotta da Autoscout 24 ed EGAF Edizioni, con le maggiori associazioni di autoscuole italiane Confarc e Unasca, solo il 24% oggi supererebbe l'esame a pieno titolo, la media nazionale del 22,3%. Un dato che evidenzia l'importanza di effettuare aggiornamenti costanti anche dopo aver conseguito la patente, viste le continue modifiche al codice della strada avvenute in questi anni. Ma non si tratta di una bocciatura completa, dato che il campione di cittadini del Friuli Venezia Giulia ha risposto in media correttamente a 15 domande su 20. Tra gli errori più comuni si segnalano i quiz su spie e segnaletica. Il consueto sguardo al tempo, il cielo da nuvoloso variabile su pianura e costa, coperto in montagna, queste le temperature registrate alle 11, a Trieste 12 gradi, vento a 38 km orari da est-nord-est, bora, a Gorizia 12,5, a Pordenone Udine 12 gradi, a Tolmezzo 11, a Tarvisio 7, a Forni di Sopra 6 gradi, a Piancavallo e Sappada 3, sul monte Zoncolan meno 2 gradi, sul monte Lussari meno 4, a Grado 12, a Lignano 11 gradi. E mezzo. Le previsioni a cura dell'Agenzia Regionale di Protezione Ambientale per questo pomeriggio: le prime precipitazioni si avranno sulla zona montana, che diventeranno più diffuse, e poi sulla regione dal tardo pomeriggio. Precipitazioni da deboli a moderate, localmente abbondanti sulle prealpi carniche. La quota neve sarà in discesa da 1000-1200 metri nel pomeriggio a 700-800 metri in serata, fino ai 500-600 metri nella notte. Soffrirà bora moderata sulla fascia orientale della regione, con raffiche anche sostenute in serata sul Carso e a Trieste. Vento sostenuto da nord o nord-est in quota. Per domani al mattino cielo in prevalenza coperto, con precipitazioni da deboli a moderate. La quota neve nella notte sarà a 600-800 metri circa, poi in rialzo progressivamente nel corso della giornata fino a 1000-1200 metri circa. Dalle ore centrali residue, precipitazioni sparse con possibilità di schiarite. Soffrirà bora moderata al mattino, con raffiche sostenute sul Carso, e a Trieste in calo dal pomeriggio. Oggi ricorre la 13ª edizione della Giornata Mondiale della Terra, evento che in regione coinvolge studenti, docenti e ricercatori con mostre, laboratori, ricerche, video e giochi a carattere scientifico. L'iniziativa è in calendario per 2 giorni, in programma ad Aquileia. A Pordenone invece protagonisti i bambini. Un centinaio di bambini e bambine della scuola primaria Gozzi di Pordenone ha partecipato alla giornata della terra organizzata dalla Pro Pordenone. Nell'occasione è stato svelato il nuovo murale nel giardino della scuola dedicato alle api, culmine di un percorso educativo che ha proposto giochi e laboratori a tema e anche una visita a un apiario grazie a un progetto di educazione ambientale realizzato con GEA. Nel pomeriggio pulizia dei quartieri con le associazioni del territorio. Come si chiamano? Silvia Burelli è vicepreside dell'Istituto Comprensivo Pordenone Sud. Abbiamo pensato di valorizzare un lavoro che i bambini hanno fatto con GEA, dei laboratori che, nei quali hanno appreso il valore e l'importanza delle api, e grazie al contributo della Pro Pordenone e all'artista Maddalena Grava abbiamo realizzato un murales proprio per ricordare l'importanza e il valore delle api. Giuseppe Pedicini è presidente della Pro Pordenone. Ormai per noi, tutti noi, è una questione oggi di sopravvivenza. Dobbiamo pensare che se non partiamo dalla giovane età a educare questi bambini, a fargli capire l'importanza del preservare l'ambiente, il futuro per loro sarà sicuramente non buono. Allora noi dobbiamo lavorare su questo. La Pro Pordenone, che ha a cuore lo sviluppo della propria città e del proprio territorio, si impegna ogni anno su questo. Cosa ti è piaciuto di questa giornata, di questa iniziativa? Allora, a me piace molto la terra, ma soprattutto bisogna proteggere le api. Pordenone, Natascia Gargano, TGR, Friuli Venezia Giulia. Due furgoni con 2 tonnellate di aiuti umanitari hanno raggiunto in questi giorni da Trieste la città ucraina di Kherson, nel sud del paese, a poche decine di chilometri dal Mar Nero e dal fronte di guerra. Si tratta della 15ª spedizione partita dal capoluogo regionale in questi 26 mesi dall'invasione russa. Cibo, prodotti per l'igiene personale, ma anche generatori di corrente, estintori, materassi, frigoriferi e lavatrici sono stati consegnati dai volontari triestini alle associazioni umanitarie della città di Kherson, fra le più colpite in questi 2 anni di guerra. 3 i volontari al seguito, i triestini Gabriele Lagonigro e Sergio Vianello e il vicentino Roberto Maculan di Mission Land. Gabriele Lagonigro. Ci siamo affidati a delle organizzazioni del posto che assieme a noi oggi hanno fatto la distribuzione degli aiuti casa per casa, famiglia per famiglia. C'è una grande necessità di qualsiasi genere di prima necessità, anche perché il 90% delle persone sono scappate da Kherson, quei pochi che sono rimasti sono poveri, sono molto anziani, i negozi sono tutti chiusi e hanno bisogno davvero di tutto. Anche in questo caso è importante il sostegno arrivato dalla cittadinanza di Trieste e da numerosi altri volontari giuliani, fra cui Stefano Ravalico, che più volte ha partecipato alle missioni nel paese. Sentiamo Sergio Vianello. Volevamo ringraziare tutte le persone che ci aiutano, le associazioni, gli Amici del Cuore, la parrocchia di Valmauro, la parrocchia di San Vincenzo, la conferenza di San Vincenzo italiana, ma anche la conferenza di San Vincenzo slovena, tutte le persone che in qualche maniera contribuiscono, ci aiutano e che non dimenticano che in questo periodo la guerra qui purtroppo continua, la sofferenza continua. Kherson contava 300.000 abitanti all'inizio del conflitto, oggi ne sono rimasti meno di 30.000. Il prossimo viaggio è previsto probabilmente già a maggio e la meta sarà la regione di Kharkiv, già raggiunta varie volte nelle precedenti spedizioni e dove la situazione peggiora di giorno in giorno. Andrea Vardanega, TGR Friuli Venezia Giulia. Anche la nostra regione ha partecipato al progetto nazionale di monitoraggio delle garzaie, che sono le colonie riproduttive degli aironi. I risultati sono stati illustrati dal coordinatore regionale del monitoraggio durante un'escursione alla Valle Cavanata di Grado. Il monitoraggio delle garzaie in Friuli Venezia Giulia ha preso in esame 17 siti nei quali sono state individuate 9 specie di uccelli per un totale di oltre 2.000 nidi. La specie più prolifica è risultata il marangone minore con oltre 600 nidi, seguita dall'airone guardabuoi, l'airone cenerino, il cormorano e la garzetta. Da segnalare che il primo in classifica, il marangone minore, è comparso per la prima volta sul territorio regionale nel 2012, quindi ha avuto una vera esplosione demografica. Sentiamo il coordinatore del monitoraggio, l'ornitologo Paolo Utmar. Bisogna cercare di conservare al meglio le zone umide di acqua dolce, i canneti della foce dello Stella, ad esempio, e procedere al ripristino di zone umide. Il numero di garzaie e le specie presenti sono da collegarsi all'estensione delle zone umide. Negli ultimi 40 anni le tipologie di specie avifaunistica che riproducono nelle garzaie in Friuli Venezia Giulia sono passate da 4 a 9 e le colonie riproduttive da 2 a 17. Preoccupa però la diminuzione delle presenze dell'airone rosso. L'arrivo del cinghiale lo ha costretto ad abbandonare i siti riproduttivi situati a terra nei canneti e quindi l'animale oggi nidifica sugli alberi. Inoltre, per l'ingressione di acqua salsa nella foce dello Stella, che ha degradato i canneti della riserva naturale omonima. E al punto di osservazione della cavanata gli escursionisti hanno potuto incontrare Margitta Schöff-Thommann, fotografa naturalista di fama internazionale. Tanti anni fa, quando sono venuta qui, ho capito subito che questa era la mia casa. Gli animali, la laguna, tutto è come un paradiso. Ogni anno cambia, vengono altri animali, è sempre una sorpresa. Dalla Valle Cavanata di Grado, Maurizio Mervar, TGR Friuli Venezia Giulia. La pagina della cultura va alla giornalista irlandese Sally Hayden per il libro inchiesta "È la quarta volta siamo annegati", la 20ª edizione del premio letterario internazionale Tiziano Terzani, riconoscimento istituito dall'Associazione Culturale Vicino Lontano di Udine insieme alla famiglia Terzani nel nome del giornalista e scrittore fiorentino. Lo ha annunciato oggi la presidente di giuria Angela Terzani Staude, vedova di Tiziano Terzani, che ha affermato, rendendo nota la motivazione, che Sally Hayden ci ha consegnato un reportage rigoroso e al contempo di potentissima verità umana, che ci presenta il quadro dettagliato di ciò che accade al di là del Mediterraneo, nei lager del terzo millennio, obbligandoci a interrogarci su uno scandalo umanitario che ci vede responsabili come cittadini europei e come italiani, e che d'ora in poi nessuno di noi potrà più fingere di ignorare senza sentirsi colpevole di indifferenza. Sono estremamente onorata, ha dichiarato Sally Hayden, di essere la vincitrice del premio. Il mio reportage si è concentrato sull'evidenziare gli abusi che vengono compiuti in nostro nome, sul far sentire la voce delle persone vulnerabili che soffrono in quei luoghi. Dedico questo premio a tutti coloro che hanno rischiato la loro vita per inviare informazioni dalla Libia e dal Nord Africa. Nel ventennale del premio la giuria ha deciso di assegnare una menzione speciale all'artista e attivista cinese Ai Weiwei per il memoir Mille anni di gioie e di dolori. La fisioterapista e campionessa mondiale di pattinaggio Giulia Bongiorno, con il vigile del fuoco Marco Borrello e il manager Marco Borrello, sono i vincitori del premio San Marco di quest'anno. Il riconoscimento viene assegnato dall'associazione Pro Pordenone, d'intesa con l'amministrazione comunale, ai cittadini della provincia di Pordenone che, operando qui oltrove, si sono distinti in vari campi di attività umana. Il premio sarà consegnato giovedì 25 aprile, nel giorno della festa di San Marco, patrono della città, nella sala consiliare del municipio. Eccoci allo sport calcio. Per non affondare, l'Udinese si affida al campione del mondo del 2006 Fabio Cannavaro, atteso oggi a Udine per la firma del contratto. Cannavaro sostituisce Mister Cioffi e già da giovedì avrà di fronte Daniele De Rossi per il recupero di Udinese-Roma. Un nome che è diventato mantra per ricordare l'Italia campione del mondo del 2006, Fabio Cannavaro, per la missione salvezza dell'Udinese. L'uomo del pallone d'oro, scelto per sostituire Gabriele Cioffi dopo il KO dei friulani a Verona, è il terzultimo posto virtuale in compagnia del Frosinone, ma con la gara con la Roma da recuperare. Udinese ora in zona retrocessione, e allora ecco il 15° allenatore nelle ultime 10 stagioni per il club dei Pozzo. L'ex capitano della nazionale, 51 anni, da allenatore dopo le esperienze in Cina ed Emirati Arabi, l'anno scorso sulla panchina del Benevento in Serie B con l'esonero, dopo aver ottenuto 16 punti in 17 partite. A Udine parte da quota 28, con lui nello staff il fratello Paolo e Giampiero Pinzi, bandiera del club friulano già promesso dalla società come vice di Edi Reia se il tecnico di Lucinico avesse accettato di ritornare ad allenare. Reia però, che a ottobre compie 79 anni, non se l'è sentita e sulla panchina dell'Udinese, giovedì sera con la Roma, nei 18 minuti rimanenti, dal parziale di 1-1, ci sarà Cannavaro. Poi la missione salvezza prevede la trasferta di domenica a Bologna, la gara in casa con il Napoli e gli scontri diretti con Lecce allo stadio di Via del Mare, Empoli al Friuli e l'ultimo a Frosinone. Sebastiano Franco, TGR Friuli Venezia Giulia. Basket in Serie A2, nell'ultima giornata della fase a orologio, ieri hanno vinto le squadre di Trieste e Cividale contro Rieti e Vigevano, a Udine sconfitta Cantù. 10 su 10. Cividale chiude senza sconfitte la fase d'orologio andando a vincere 77-76 sul campo di Vigevano. La vittoria non vale però avanzamenti in classifica con il settimo posto finale e la relativa difficile sfida a Cantù nei play-off. Partita intensa nonostante lo scarso valore in classifica tra due squadre che due anni fa si giocavano la finale di B e ora sono entrambe i play-off nella categoria superiore. Vigevano lascia a riposo Smith, ma è comunque avanti nel primo quarto. Poi inizia il solito show di Cividale in attacco con Redivo e Miani. Si arriva nel finale punto a punto dopo che i Ducali avevano condotto anche in doppia cifra. Decisiva una tripla da 9 metri del solito argentino e un canestro da campione di Dell'Agnello a 4 secondi dalla fine. Torna la vittoria in trasferta a Trieste, al primo successo fuori dalle mura amiche da dicembre. Arieti che gioca con la pancia piena e che non vuole scoprire le carte in vista di un possibile incrocio playoff poi scongiurato, si vedono le migliori armi della squadra biancorossa: tiro da 3 punti con percentuali altissime, 14 su 28, e bene anche la difesa nella prima metà con l'accelerata decisiva a cavallo di terzo e quarto periodo. Protagonisti i rientranti Figlioi e Vildera. Nel finale un po' di rilassatezza, ma è comunque vittoria per 87-92. 24 i punti del miglior Ruzier di sempre in attacco. Ora i biancorossi ai quarti di finale troveranno senza fattore campo la Torino dell'ex Franco Ciani. Avrà fattore campo invece un buon accoppiamento la Pudine, che però a Cantù infila la terza sconfitta di fila, ancora senza Clark e Carotti che saranno valutati in settimana. Friulani subito sotto contro i Brianzoli già sicuri del secondo posto, con un secondo periodo da soli 9 punti e con difficoltà enormi nelle rotazioni tra gli esterni. Buono l'approccio nel terzo periodo degli uomini di Vertemati, ma non basta. 78-65, 18 i punti per Alibegovic. L'Apu nel primo turno trova una Cremona che ha rinunciato negli ultimi giorni di mercato e i due giocatori italiani più esperti. Si comincia sabato 4 maggio, le regionali sono tutte dalla stessa parte del tabellone, anche se non ci saranno incroci al primo turno. In nessun caso però ne potrà essere promossa più di una. Trieste, Andrea Saule, TGR Friuli Venezia Giulia. Una notizia appena arrivata: è stata ritrovata dalle squadre di soccorso la signora che non dava più notizie da ieri nel comune di Verzegnis. Le ricerche erano partite, ricordiamolo, questa notte dopo che il figlio aveva denunciato il mancato rientro della madre. Alle ricerche hanno partecipato i vigili del fuoco, il personale del soccorso alpino della Guardia di Finanza, il personale del soccorso alpino, i volontari della Protezione Civile e forze dell'ordine. I vigili del fuoco, presenti con 30 unità tra esperti nella topografia applicata al soccorso, cinofili, esperti del SAF, lo speleo alpino fluviali, squadre ordinarie, dronisti e sommozzatori che hanno utilizzato anche appunto il drone per le ricerche subacquee nel lago e che hanno allestito il posto di comando avanzato presso il furgone dell'unità del comando locale posizionato a Chiaulis, e da quale sono state coordinate tutte le operazioni di ricerca. La signora ritrovata è stata presa in carico dal personale sanitario. Concludiamo con un'informazione di servizio. La scorsa notte a Trieste si è verificata la rottura di un tratto di condotta idrica in via dell'Eremo, angolo via Massimiliano D'Angeli. A Cegas, APS AMGA è già all'opera per avviare i lavori di riparazione e ripristinare il servizio quanto prima, possibilmente entro la serata. Le utenze nell'area compresa tra via dell'Eremo, via Massimiliano D'Angeli, via Revoltelle e via Flumiani sono senza acqua e potrebbero verificarsi cali di pressione nelle vie in zona. È tutto per questa edizione del GR. In redazione ha collaborato Valentina Veneruso, per la parte tecnica in regia Mauro Ciccarelli e Bruno Montevecchi. Da parte di Maria Spezia ed Elisabetta Zaccolo che vi parla, l'augurio di una buona giornata. Abbiamo trasmesso TGR, giornale radio del Friuli Venezia Giulia.